Tony, mi senti? Proponi qualcosa te o noi? Che c'hai in mente? Noi siamo chitarra e batteria insieme. Tonalità di Do.